Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Buongiorno, buongiorno, sono le 15.00:10 secondi, quindi le 15 in punto, ma io mi sto ancora sistemando in studio perché fa freddino, mi sono messa la sciarpa, sembro la Befana, mi hanno lasciato uno studio gelido, congelato, però profumatissimo, perché quando c'è Oscar Giannino la mattina c'è un profumo buonissimo in studio. Ciao Oscar, grazie. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Allora, per contattarci, per tenerci compagnia, il numero per i vostri SMS, ma anche per i vostri WhatsApp: 349-238-6666, 349-238-6666, anche se so che un sacco di persone ce l'hanno memorizzato nella rubrica del telefonino sotto Radio 24, anch'io lo confesso, perché scrivo sempre ai colleghi che sono in onda quando li sto ascoltando. E poi se avete lo smartphone o un tablet sotto mano, anche Twitter, il mio account di Twitter è @MartaCagnola, ma c'è anche l'hashtag ISDV, le iniziali di Il Sabato del Villaggio. Ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo con il sabato del villaggio. Con noi gli Skunk Anansie, in particolare Skin, dopo la grande annata di X Factor. Skin, che è passata per Milano, e gli Skunk Anansie, che hanno presentato il loro nuovo album, saranno con noi nella prima ora del sabato del villaggio. Poi l'appuntamento con il gastronauta, torniamo, ve l'avevamo promesso, a parlare di Roma, ma anche, come sempre, di una nuova tendenza. La tecnologia, Enrico Pagliarini è tornato da Las Vegas con tutte le ultime novità, ma anche consigli per la privacy, mi interessa molto. Ma prima però sentiamo già profumo di Oscar. In questa terra desolata, io sono colui che fugge sia dai vivi che dai morti. Un uomo ridotto a un unico istinto: sopravvivere. Allora, io prima dicevo che Oscar Giannino lascia un profumo favoloso in studio, no? Non è ironia, è vero, c'è un profumo favoloso, ma in questo senso profumo di Oscar intendevo le statuette. 28 febbraio, le statuette, abbiamo sentito le nomination questa settimana, vogliamo sapere quali film vale la pena vedere, quali recuperare, perché alcuni escono questo fine settimana al cinema, poi ne parleremo anche nel corso della puntata, però ce ne sono alcuni che abbiamo forse un po' scordato, ad esempio questo Mad Max Fury Road, che alle candidature agli Oscar è andato benissimo, adesso lo trovate ancora in DVD e so che c'è un appassionato che è stato assolutamente favorevolissimo a questa pioggia di candidature, 10 per Mad Max Fury Road, un amico del Sabato del Villaggio, oltre che un mio amico bravissimo critico cinematografico, Gabriele Niola. Ciao Gabriele, grazie per essere con noi. Ciao Marta, grazie per avermi con voi. Ah, che meraviglia! Mi hai detto subito Mad Max Fury Road, fighissimo, bellissimo, sì, contentissimo. Sai che quando sono arrivate le candidature agli Oscar, un paio di colleghi mi hanno chiesto: ah, ma quando esce questo Mad Max Fury Road? Cioè, se l'erano già dimenticato. Invece da mo' che è uscito? Da maggio? Eh sì, da maggio, perché stava a Cannes, era uno dei film fuori concorso di Cannes e molti dicevano che se fosse stato dentro il concorso, chi lo sa, magari vinceva pure, anche se non sembra un film da Cannes, sembra un film tutto inseguimenti, suspense, un grande film di genere, però è talmente fatto bene. Guarda, io sono molto contento di queste nomination, credo che secondo me non vince i premi grossi, credo che vince i premi tecnici, quelli che non interessano a nessuno, tipo quelli che uno poi durante la notte degli Oscar si alza e va, va a farsi il pesato, va a farsi il panino, queste cose qua, no? Ma secondo me tra diversi anni ci guarderemo dietro e diremo: ma ti rendi conto che quell'anno nel 2016 Mad Max non vinse niente di importante? Ma guarda, assurdo. Ah, perché secondo te diventa un classicone Mad Max? Sì, perché è veramente una cosa, è cinema come non abbiamo visti, a un livello diverso di appassionante, grande tecnica e grande anche favore del pubblico, è un'opera autoriale che piace alla gente, che è sempre un mix difficilissimo da ottenere ad alti livelli. E quindi io ho controllato, è già uscito in un video, quindi chi se lo fosse perso, perché poi era uscito a maggio, quindi appunto perfetto per Cannes, però magari un periodo in cui la gente non va più al cinema esattamente come d'inverno, recuperare assolutamente Mad Max. Allora ti chiedo solo se vale la pena, perché poi ne parleremo a lungo in questo sabato al villaggio, se a te è piaciuto Revenant di Leonardo DiCaprio, perché è quello che ha preso più candidature di tutti i 12. A te è piaciuto Revenant? È un film che ha un cuore veramente bello, ha tante cose stupende proprio, per cui diciamo che è un film che se tu sei ben disposto e gli vuoi voler bene a questo film, è molto facile volergliene bene, però ha anche una supponenza e si piace così tanto che ci sono tanti momenti un po' ti irrita come vuole essere a tutti i costi una grande poesia, grandi metafore, quando invece è un bel western duro. A me, io mi sono un po' annoiata a un certo punto, perché è lungo. Sì, forse una ventina di minuti e mezzo si potevano anche levare. Vabbè, adesso poi prenderà tutti gli Oscar del mondo, ma io mi sono un po' annoiata. Gabriele, allora, un film da recuperare. Abbiamo detto Mad Max, uscito un sacco di tempo fa, da recuperare perché favoloso e quelli che decidono gli Oscar se ne sono ricordati, hanno votato bene, ma ci sono altri film che circolano ancora che sono ben piazzati per il miglior film. Io ti chiedo cosa ne pensi e se li andiamo a vedere oppure no, perché ad esempio The Martian, che un po' è stato travolto nelle sale perché sono arrivate delle grandi uscite nel frattempo che si sono prese tutti gli schermi, The Martian è anche quello, il sopravvissuto, The Martian trattino il sopravvissuto, per adesso noi mettiamo i trattini in italiano per fare i titoli che si capiscano ma che rimanga anche un po' inglese. È secondo te un bel film da vedere? Lo recuperiamo se lo ritroviamo in sala? Sì, curiosamente è un altro film come The Revenant di sopravvivenza, di sopravvivere in un ambiente ostile che in questo caso è Marte. È molto bello, sai perché? Perché vera fantascienza, cioè sono quei film in cui c'è molto l'idea della tecnologia, del futuro, di scenari mai visti prima, ovviamente vivere su Marte, figuriamoci, ma è anche un film come non ne avevamo mai visti di fantascienza, perché solitamente nella fantascienza ci stanno o gli alieni o una guerra stellare o comunque diciamo un che di azione, si combatte nello spazio, tranne rari casi, invece questo è un film dove non c'è nessuno se non il protagonista, è solo contro l'ambiente, che è una cosa molto particolare, mi ricorda un po' per certi versi il film di Cuarón con Clooney e Gravity. Infatti ti volevo chiedere, lo consigliamo a uno a cui è piaciuto Gravity? Probabilmente assolutamente sì. Tra l'altro, se vince qualcosa potrebbe essere un primato, perché è il primo film di questa dimensione così grande, così importante a questi budget, che è tratto da un libro autopubblicato, cioè chi ha scritto il libro se l'era pubblicato da solo su internet, poi dopo sono arrivate le case editrici più grandi in virtù del successo che aveva avuto, ma insomma era un indipendente che ha fatto tutta la gavetta, che è incredibile. Ti è piaciuto La grande scommessa? Guarda, proprio no. Stronchiamo La grande scommessa, candidato come miglior film. Gabriele Niola dice La grande scommessa no. No, anzi, mi sa che sono rimasto molto stupito di tutte queste candidature, perché secondo me è veramente un film molto povero, che uno non riesce nel suo obiettivo, che sarebbe spiegare la grande crisi economica che abbiamo vissuto, e in particolare hanno vissuto gli Stati Uniti, quella del 2008, a tutti quanti, e non ci riesce, perché a un certo punto diventa veramente farraginoso, non ci si raccapezza e non si capisce più nulla, ma soprattutto si finge un film sperimentale, con tutte le sue variazioni sui piani temporali incrociati, la gente che guarda in camera e parla con lo spettatore, e veramente non è cosa sua. Allora, adesso magari tu mi sgridi, ma io mi sono, per parlare di altri film candidati come miglior film all'Oscar, mi sono annoiata tantissimo. Adesso gli ascoltatori mi stramalediranno, chi è andato a vedere il film. Mi sono annoiata molto con Carol. Sì, son botte. Son botte. Allora, cioè, storia d'amore delicatissima, bellissima, l'incontro tra due donne, la difficoltà di vivere questo amore, eccetera. Però tutto questo film è sussurrato, tutto. Io mi sono annoiata tantissimo. Il film è ancora in sala, consiglio o sconsiglio di Gabriele Niola? Ma guarda, io devo dire, sono un po' cerchio bottista su questo film, perché non ne vado pazzo, però ne apprezzo tante cose. Quando tu mi dici che ti sei annoiata, io non posso risponderti, non posso che dirti, un po' ti capisco. Però ci sono anche tante cose belle, del resto non è un film stupido, anzi è un film che ha più di un suo perché. Io mi aspetto adesso i messaggi al 349-238-6666, sia SMS che WhatsApp, di ascoltatori, ascoltatrici, inferociti e inferocite, perché... ma loro sono bravissime, che Blanchett e Runimara sono favolose, belle, tutto. Però, vabbè... Allora, dice, il bravo critico di una volta, quello degli anni 60, dice... Sì. Per amanti del genere. Ah, guarda... Che invidia, quella roba che se la cavavano sempre, per amanti del genere. Ma se vi piacerebbe, vi piace. Beh, straordinario. Piace, sì. Sì, certo. Ci sono dei film, però, che non sono ancora usciti in Italia. Stanno uscendo, usciranno. Io so che a te è piaciuto molto, tra i film candidati agli Oscar, così come spunto di cronaca, ma anche perché in teoria dovrebbero essere i film americani più belli usciti nell'ultimo anno. Se ci fidiamo dei votanti dell'Academy, sono i più belli. Poi possiamo avere le nostre opinioni. Spotlight, so che a te è piaciuto molto. Eh sì, che bello, quello veramente lo consiglio a tutti. È proprio un bel film, cioè un film scritto benissimo e interpretato ancora meglio. Infatti io un po' spero, in realtà il mio cuore di ragazzone degli anni Ottanta spera che il premio al miglior non protagonista vada a Sylvester Stallone. Guarda, non devi dirlo neanche per scherzo, deve andare a Sylvester Stallone. Però c'è anche candidato Mark Ruffalo come non protagonista per il caso Spotlight, ed è veramente una grande interpretazione, molto molto molto molto bravo, e io ve lo consiglio in due parole. È quello che accadde veramente all'inizio degli anni 2000 a Boston, quando un giornale, il Boston Globe, e la sua sezione che si chiamava Spotlight, che era una sezione che faceva inchieste, fecero un'inchiesta sui preti pedofili. Ci ricordiamo tutti quello che è successo dopo, cioè scoperchiarono un mondo che nessuno credeva possibile, ci fossero così tanti abusi a quei livelli. E la storia di queste indagini da parte di questi uomini, delle domande che si fanno, è bellissima. Ce lo consigli, ma lo dobbiamo ancora aspettare, perché esce in febbraio, quindi... Sono furbi, la distribuzione italiana, che se non sbaglio BIM, è molto furba, perché la fa uscire sotto l'Oscar, non fa l'effetto Mad Max, che ci facevo, dimentichiamo. Certo. Quindi questa settimana escono Revenant e Creed, così effetto nomination. Esatto. E qualcuno ci chiede invece al 349-238-6666, Star Wars nessuna candidatura? No, sono arrivate tecniche Star Wars, sono arrivate assai. Ma posso dire, è un po' tipico dei film che già si sa che sono a trilogia. Se non ricordate male, anche Il Signore degli Anelli non prese nulla fino al terzo. Al terzo è come se venisse premiato per tutto quello che è stato anche prima. Ah, tu dici statuette retroattive? Cioè, spesso capita, se già lo sai che tanto arriveranno a un terzo, si tende un po' a fare così. Beh, sono dei meccanismi dell'Academy affascinantissimi. Sì, guarda, cioè, quindi... più intricati veramente dei David di Donatello, che è tutto dire. Beh, questa è una battuta per addetti ai lavori. Alberto vuole un tuo parere sul Ponte delle Spie. Pure quello è un gran bel film, anche quello ha un sacco di belle nomination, e purtroppo, lo dico sempre purtroppo perché io spero sempre in Stallone che vinca, l'attore non protagonista del Ponte delle Spie, quello che fa il russo, il prigioniero russo, e anche lui è bravissimo. Anche quella è una storia vera, e questo meriterebbe una trasmissione a parte, quanto negli ultimi anni raccontiamo quasi solo storie vere, di quel che accadde negli anni 50, quando ci fu un pilota americano fu preso prigioniero dai russi in piena guerra fredda. Molti che erano vivi all'epoca se lo ricordano, perché finì sui giornali, se ne parlò per tantissimo tempo, ed è un film di Spielberg, che vuol dire che è perfetto. che peraltro Spielberg arriva tipo a 7 candidature come produttore, insomma, un bel record, anche se il record è quello dell'autore della colonna sonora di Star Wars. Adesso cito a memoria, magari mi sbaglio, John Williams 50 nomination, vabbè, ormai non se le ricorda neanche più, non se le ricorda neanche più. Ti faccio l'ultima domanda, Gabriele, ma Sylvester lo vince l'Oscar secondo te? Dai, allora, lo vince? Secondo me, perché ci hai citato Mark Ruffalo, cioè, però dai, glielo danno. Allora, benché secondo me non lo meriti per questo film, l'ha meritato per altri, ma non per questo, però comunque qui c'è arrivato, secondo me glielo danno perché anche loro vogliono vedere questa storia, dell'outsider che alla fine, dopo tutta una carriera, ce la fa, e vogliono sentire quella musica quando lui sale le scale dell'Academy. E se Leonardo DiCaprio non vince, spacca tutto. Ma lo sai che, cioè, Revenant, abbiamo detto, un film che non è male, è... Leonardo DiCaprio secondo me è un gran bravo attore, ma veramente questo ruolo non è da Oscar, cioè non è questo il ruolo da Oscar. Ma glielo devono dare per sfinimento, però, sì, dai. Sarà il paradosso, glielo daranno per un film in cui non lo merita. Beh, dai, l'Oscar per sfinimento. Che meraviglia, grazie per essere stato con noi, Gabriele Niola, chiocciola Giniola, se lo volete seguire su Twitter, anche perché poi ha il suo blog dal nome lunghissimo, quindi lo andate a recuperare da Twitter. Grazie Gabriele per essere stato con noi, grazie. Grazie a te, Marta. Anche perché poi lo richiamiamo Gabriele per capire se poi Sylvester e Leonardo ce l'hanno fatta oppure no. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, strade, autostrade, per chi sta viaggiando, per chi è in viaggio, ci ritroviamo tra poco pochissimo per parlare col gastronauta. Il sabato del villaggio. È il momento del nostro gastronauta e oggi lo accogliamo così. At Home, Paul e Linda McCartney, è il periodo Wings, 1971. Io questo pezzo non me lo ricordavo. Se l'ha ricordato Christian Goldoni in redazione. Eat at Home, mangiamo a casa. Mangiamo a casa, non lo so, lo chiediamo a Davide Paolini. Buongiorno Davide. Buongiorno, buongiorno. Beh, devo dire che negli ultimi tempi molti tornano a mangiare a casa, ma mangiare a casa, diciamo, una vecchia abitudine, ma ci sono delle nuove abitudini del mangiare a casa. Cioè il cuoco a domicilio. Ah, mangiamo a casa ma con un signor cuoco che viene a cucinare. Esattamente. Esiste il catering, ma non ha niente a che fare, perché il catering, diciamo, sono più persone, dove il catering prepara tutto. Invece in questo caso il cuoco a domicilio prepara secondo gli ordini il menù che si vuole, va a fare la spesa, poi serve il pranzo o la cena, quindi direttamente a casa con la cucina di casa, senza portarsi tavoli, tegami ed altro, quindi tutto a casa. E devo dire che è una professione che sta crescendo a vista d'occhio, sono tantissimi, molti anche cuochi, per così dire, che non hanno avuto tanta fortuna nei ristoranti o altro, che si sono dati a questa professione. Però credo che il più curioso tra questi cuochi a domicilio, che mi dicono sia stato uno degli iniziatori, è il sindaco di un paese nel veneziano, è il sindaco di Cona, il quale appunto si chiama Alberto Panfilio, e il quale come passatempo ha questo, fa lo chef a domicilio. Sindaco e chef, beh, sì, in particolare, accoppiata. Sì, fantastico, fantastico. In particolare nel veneziano, non si muove molto perché secondo me deve stare attento al suo comune, quindi ai problemi del suo comune. Comunque lui sceglie i prodotti, diciamo, poi cucina prevalentemente pesce, ma sono tanti, io ne ho individuati alcuni, di cui posso chiederti una cosa prima, Davide? Certo. Cioè, se io invito un cuoco a domicilio, devo fornirgli, cioè, che può venire, io ho una cucina piccola, si deve accontentare di quello che trova, porta le sue... Ma sta tranquilla che si accontentano, non c'è problema. Non c'è problema perché sicuramente sono abituati a cucinare ovunque, in tutte le case. Beh, un minimo di tegami, di queste cose, di attrezzatura bisogna avere. Ho tutto. Ma magari sì. Ho tutto. Vabbè, allora poi gli si comunica questo. E, gli devo dire, la cucina è un po' piccina, però trovi tutto. Ma devo dire che ho detto prima di cuochi, che ce ne sono molti, ma ce n'è uno bravissimo che ora che ha lasciato il suo ristorante dopo tanti anni, uno chef veramente famosissimo a Milano, che è Sergio May. E Sergio May prepara questa cena a casa vostra, e lui addirittura con il suo team prepara questa cosa a cena con un minimo di 8 persone e un massimo di 10 persone. Quindi diciamo che ci sono anche delle cose molto importanti come questa, però ti devo dire che la più divertente è qui veramente sentirò le risate e magari qualche commento dei nostri radioascoltatori. Tra gli chef a domicilio, a Milano popola lo gnocco in cucina e a Roma invece il fico in cucina. E cosa, sono nomi evocativi questi, ovviamente. Daniele, Davide, scusami, io già comincio a sognare. Non farmi svegliare subito. Non è quello a cui sto pensando io. Beh, questi diciamo che è la festa della notte, il giorno prima delle nozze, sicuramente possono venire a casa e fare questa cena. Quindi, un addio al nubilato. Un addio al nubilato, questi qua, incredibile. Un addio al nubilato, e sembra che questi vadano veramente forte. È evidente che si sono scelti dei nomi in cui probabilmente qualche allusione c'è, perché fico in cucina e lo gnocco in cucina, insomma. Tra l'altro conoscono bene l'italiano, perché molta gente sbaglia sempre e dice il gnocco. Invece è corretto, lo gnocco in cucina. Però questi hanno dei costi molto più alti degli altri, attenzione, questi costano molto più cari. Ma poi ce n'è una, diciamo, da buttarsi a terra da ridere, che in Giappone ci sono alcuni cuochi che si sono inventati la cena a domicilio per una serata speciale con il proprio gatto. E questo, qui mi fermo e sento le risate. Ma chi è che organizza questo? Organizza questo è la Purina Giappone. La Purina è una società che produce diciamo cibo per gatti e cani. Insomma, hanno messo assieme anche questi, c'è un sito, e chi vuole fare la cena per il proprio gatto o chiamare con il proprio gatto, fa sia il gatto che appunto la persona. Come dicevo, cioè, non nel senso niente... che il gatto mangia. Il gatto mangia, il ecco. Gatto mangia, certo che il gatto no, perché mangia. Non vorrei che qualcuno pensasse. No, questo non succede in Cina. No, non ci siamo proprio. Cioè, è fatto apposta perché questo cuoco prepara, diciamo, la cena per il gatto. Quindi prepara la cena per il gatto e magari gli mette anche il vestito da sera, come succede, come si vede ogni tanto, per cui esiste anche questo. Ma io credo che magari fiorirà anche quello che prepara per il cane, sicuramente. Non cosa direi non il leone, si fa per gli animali domestici? O il serpente, ma insomma... Per la gallina forse non si può fare questo, ingrassare la gallina o ingrassare il maialino, questo non si può fare. Poi, quindi diciamo che è una cosa molto divertente, è una tendenza, e prevalentemente ho visto dalla ricerca che ho fatto in Veneto, ci sono moltissimi appunto, moltissime coppie soprattutto che fanno questo tipo di mestiere, ma è evidente che è un hobby, non è che lo fanno tutti i giorni, perché è difficile trovare tutti i giorni qualcuno che ti chiama a casa, ma è diverso dal home restaurant di cui abbiamo parlato in passato. Home restaurant è qualcuno che fa da mangiare a casa, si mette su internet e diciamo prepara per 8 o 10 persone che si devono prenotare. Lì è successo un 48 con l'ufficio delle entrate, non so se funziona ancora o non funziona. Eh sì, più. Perché era di fatto un business, ma tutto in nero. Detto tra noi, tutto in nero. Insomma, non si possono usare altri termini. No, ecco. No. Bene, itinerario? Andiamo diretti a Roma. Anche perché la scorsa settimana mi hai dato un po' di indirizzi, solo che parlare di Roma in un appuntamento solo è troppo poco. Radio24.it, il podcast per recuperare la prima puntata del nostro itinerario a Roma con Davide Paolini, ancora Roma immensa e quindi tanti consigli. Bene, come l'altra volta andrò dalle trattorie, diciamo a ristoranti un po' più, come posso dire, ricercati, ma Roma io ritengo che il meglio di sé lo dia con le trattorie, con tutto il rispetto, con tanti bravi chef che ci sono. Comunque la prima appuntamento che voglio dare è Checchino al Mattatoio. Il nome dice già dove siamo di fronte al Mattatoio, è un locale storico, un locale ottocentesco, quindi da quando a Roma si portava la carne nei magazzini generali. Ebbene, questo mattatoio, come posso dire, è il clou della cucina romana. Si va perché gli antichi diciamo macellai o d'altro che andavano a fare il mercato, gli davano tutto quello che erano le frattaglie, soprattutto le frattaglie, e loro sono diventati dei cucinatori di frattaglie davvero, davvero straordinari. I rigatoni con la pajata di Checchino al mattatoio sono, diciamo, uno dei must, oppure ancora la matriciana, la carbonara, il cacio e pepe, poi ancora ottima, ecco, per chi non vuol mangiare appunto questa interiora o quarto, come si chiama, la zuppa di ceci o la zuppa di fagioli, sono veramente interessanti. Chi ama il quarto, c'è l'insalata con i zampi, come le chiamano loro, oppure c'è anche coniglio e tante altre cose, ci sono anche delle verdure, a cominciare dalla cicoria, servite appunto saltate in padella, veramente ottime. Poi, da non perdere, i dolci casalinghi e un gelato alla nocciola, che ogni volta che io vado lo mangio, perché è uno dei gelati alla nocciola che più mi piace. Buona anche la carta dei vini. Sempre rimanendo, diciamo, nella tradizione, andiamo da Cesare al Casaletto. Cesare al Casaletto ha una specialità, che sono le polpette iniziali di bollito con la salsa, oppure c'è un'altra cosa molto divertente, che sono gli gnocchi fritti di cacio e pepe. Anche qui si possono mangiare tutte diciamo, i grandi piatti della cucina romana, che sono, secondo me, dei grandi piatti. La tradizione romana, secondo me, ha dei piatti veramente notevoli che fanno grande la tradizione italiana. Un ultimo, anche i tonnarelli al vignarola. Anche questo è un'altra cosa molto particolare che viene fatto. Poi c'è la trippa, c'è il baccalà e via di seguito. Ma sì, diciamo che la cucina romana è sempre molto, molto sostanziosa, quindi vale la pena lanciarsi anche in avventure gastronomiche di peso. Certo, ma io ora vestito Roma, ma anche qualcosa di più delicato sicuramente. Beh, andiamo in un locale che si chiama Metamorfosi. Metamorfosi è di uno chef uruguaiano, che si chiama Roy Caceres, e che è da tanti anni in Italia. Io una volta l'ho sentito, appunto l'ho intervistato per Radio 24, e devo dire che non mi ero accorto che fosse straniero, aveva una perfetta dizione italiana, quindi diciamo che è uno che ha studiato come. Da lui c'è una versione, come posso dire, molto sofisticata, molto personale della carbonara, che si chiama l'uovo a 65 gradi alla carbonara. E devo dire che è, come posso dire, un ricordo della carbonara senza essere la carbonara tradizionale, e vale la pena perché è una cosa originale per chi magari tante volte ha mangiato la carbonara nei locali che abbiamo dato anche l'altra volta, e devo dire che questo può essere una deviazione interessante. Ma poi c'è anche un altro piatto che non è tradizione romana, che è l'anguilla. L'anguilla è fatto col farro franto e il gelato in carpione, e questo è, diciamo, un modo di servire l'anguilla, che è un pesce molto grasso, invece diventa, diciamo, un pesce che perde la grassezza, quella che di solito magari a molti non piace, e quindi è un altro must molto, molto intrigante. Poi una pizzeria, perché ci vuole anche un itinerario, una pizzeria, si chiama La Gatta Mangiona. Ah, quella ci sono stata, finalmente uno. Vabbè, che ho provato anch'io, gli altri me li sto segnando invece per il primo weekend che faccio a Roma. Mm-hmm. Bene, La Gatta Mangione è a Monteverde, quindi se ci sei stata, e diciamo il patrone è Giancarlo Casa, che è importante nella storia della pizzeria romana, perché ha dato abbastanza la svolta, diciamo, sulla preparazione, sulla cottura, sull'uso delle farine. E devo dire che, insomma, è una pizzeria di alto livello, e c'è una in particolare che è la pizza al fumo con bufala affumicata e specche. Questa è una specialità, però ci sono anche tutte le altre pizze, quindi ognuno può scegliere. Per tornare a un locale, diciamo, di sofisticato, nel senso di uno chef che ha dei trascorsi molto buoni, è un 2 stelle tra l'altro questo. Quindi è il pagliaccio è in via dei Banchi Vecchi, e diciamo che è un posto bellissimo nel cuore di Roma, tra le botteghe artigiane, gli antiquari, quindi un posto anche, diciamo, come posso dire, dove si può andare benissimo a vedere la Roma vera, Ecco, diciamo che Genovese è un creativo anche se ha una base diciamo in campagna per tanti anni, e quindi diciamo che c'è una base della sua cucina che prende dalle basi appunto dalla zona dove lui, dal territorio dove lui è stato per diversi anni a Ravello. Ma cosa c'è di interessante? Per esempio la ostrica con la zuppa di burrata, oppure ancora gli spaghetti alla chitarra con broccoli e filetti di razza. Anche questi sono, diciamo, che non sono della tradizione romana, certo. Però vale la pena di provare. L'ultimo, last but not least, è una donna. È una donna che è molto nota ora a Roma. Women grande, Power, grande sono crescita. Contenta. Il ristorante si chiama Glass Osteria, però non è solo questo, di Cristina Boverman, che è un'italiana rispetto dal nome, anche se ha vissuto lungamente in America, ed è una cuoca che, diciamo, negli ultimi anni a Roma, ma anche a livello nazionale, è diventata molto molto nota. Tra l'altro lei non ha solamente questo Glass Osteria, ma anche un altro locale che si chiama Romeo, dove si può comprare e mangiare, anche diciamo tre Ape Car, che si chiamano mi pare Romeo Car, e poi ultimamente so che cucina qualche volta anche al mercato in due banchi. Allora cos'è di interessante? Ad esempio le tagliatelle di seppia con ricci di mare, oppure gli spaghetti con caglio di latte di capra, frigitelli bottarga e culi di peperoni. Insomma, diciamo tutte cose molto molto sapide, mentre a Romeo la cucina diciamo è molto più easy, e credo che anche nell'Ape Car e anche al banco del mercato sia, diciamo, molto più easy del ristorante madre, che si chiama Glass Osteria. Sono le 15:32 e sono già pronta per fare un'altra colazione, la terza colazione del giorno. Davide, qualcuno ci ha sgridato perché abbiamo detto quarto quarto e non quinto quarto. Sì, insomma, la matematica è quinto quarto. No, mi scuso. Ma no, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Sa perché ho detto quarto quarto? Perché viene spontaneo. Quinto quarto, che sono le frattaglie poi. Perfetto. Sono tutte le frattaglie. Davide, tempo esaurito, noi ci ritroviamo la prossima settimana, una breve pausa. Vedo già Enrico Pagliarini che si sta precipitando in studio, a tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Non so se avete notato la sorpresa nella mia voce, perché ero convinta che Enrico Pagliarini fosse in collegamento, invece me lo sono visto arrivare di corsa in studio. Enrico, dai, aspetta, ti introduco ancora per ascoltando per l'ultima volta il brano che avevo scelto per introdurti in questi giorni in cui eri a Las Vegas. Eccolo qua. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. Il re Elvis, viva Las Vegas. Allora, Enrico Pagliarini, buongiorno. Buongiorno. Hai giocato? Hai vinto? tutti mi chiedono, anzi tutti sono convinti che io abbia giocato, però quest'anno non c'era la compagnia giusta, quindi non abbiamo giocato. Sei neanche entrato in un casino. Beh no, quello ci entri per quello forza, è impossibile a Las Vegas per saltarli. Nell'hotel, cioè per andare in stanza devi entrare. Però non hai giocato niente. No, sono messo lì a guardare un po' qualche roulette, però. Allora, mi piacerebbe imparare ai dadi. Gli americani sono pazzi per il gioco dei dadi. Ma poi sono difficile. Sì. Poi dico io che non gioco d'azzardo mai, però... È facile, sì. Cioè proprio la capisco non tutti, lo so, io guarda, il massimo del casino che io incrocio è quello di Sanremo, quindi non mi è mai capitato di... Potrebbe essere interessante, però ci sono alcune differenze, mi sembra, tra i giochi europei e quelli americani. Sì, vabbè, non ha giocato, quindi non ha vinto, non possiamo farci offrire da bere da Enrico Pagliarini, che però... Si può attaccare il chewing gum sotto il tavolo come... Sai che qualcuno l'ha fatto? Non in questo studio però. Sono arrabbiatissima al collega ignoto di Radio 24 che ha attaccato una gomma da masticare in uno degli studi di registrazione. Se lo prendo non si sa cosa gli faccio. Comunque, a proposito di Las Vegas, questo sarebbe il periodo per andare a Las Vegas, perché durante il CES i prezzi schizzano alle stelle. Certo. Tutto costa un sacco di soldi, voli aerei, alberghi, perché ci sono... pensate, questa è una fiera da quasi 200.000 persone e quindi riempie praticamente... A Las Vegas ci sono 200.000 stanze. Però visto che questa è una fiera business dove tutti sono in stanza più o meno da soli, occupano praticamente tutte le stanze degli hotel. Certo. E quindi i prezzi veramente sono... E adesso invece che non c'è nessuno, perché... Finito, non è nemmeno... finita la festa, gabbato lo santo. Esatto, bisognerebbe andare perché i prezzi sono ma tipo 40 euro a notte, cose che invece il le sere precedenti costavano... 10 volte tanto. Come Sanremo quando finisce il festival, uguale. Quello ne parleremo la prossima settimana, ve lo dico già, perché ascolteremo le canzoni e vi diremo già. Quindi prenotate per dopo il festival. Sì. Enrico, la scorsa settimana ci avevi raccontato già un po' di novità, impressioni da questo che noi l'abbiamo spiegato la scorsa settimana, il Consumer Electronics Show non sarebbe più così il nome, ma noi continuiamo a chiamarlo in questo modo. Sì. Che cosa ci racconti questa settimana, Enrico? Come bilancio, che cosa ti ha suscitato più curiosità? Beh, allora, ribadisco, però ne abbiamo parlato la settimana scorsa, quindi faccio proprio solo un accenno. Realtà virtuale, quando usciranno sul mercato i nuovi prodotti ne ritorneremo a parlare, anche perché immagino che alcune persone poi proveranno. Io penso e spero che nei negozi, almeno nei grandi negozi, ci sarà la possibilità di provare questi visori, perché questa è una delle tipiche cose che raccontata non si fa capire benissimo. Bisogna provare veramente, un po' come spiegare come va la Ferrari. Sì, la scorsa settimana erano arrivati molti messaggi su questi visori. Sono fantastici, incuriosiscono molto. Sono divertenti. Io l'ultima cosa, proprio l'ultimo giorno, ho fatto un'ultima prova. Mi hanno fatto giocare, io che non sono un videogiocatore, ho detto fatemi fare qualcosa di diverso da un videogioco, perché chiaramente molte delle proposte, molti dei contenuti sono videogiochi. Mi hanno fatto fare l'artista, costruendo cose, scolpendo, ma bellissimo, veramente mi sembrava di essere... Beh, incredibile, quindi tu con questo visore pensavi di fare davvero le cose? Sì, io avevo questi due controller e costruivo con uno spray, costruivo delle forme, poi tagliavo, pitturavo, ma mi sono divertito molto, devo dire che è molto coinvolgente. Vedremo poi, appunto, come dicevo la settimana scorsa, quali saranno i contenuti che verranno offerti. Questo è un elemento molto importante, molto essenziale. Questa è la cosa più bella in assoluto che ho visto. Dopodiché, cose che conosciamo già ma che ci affascinano: droni di tutti i tipi, certo, cose da mettere in casa di tutti i generi. Adesso io sto cercando di studiare qualche soluzione da mettere anche in casa mia, anche a casa tua? Sì, magari per telecontrollare dallo smartphone la caldaia del termo. Stamattina non è mai partita, vedi, adesso potrei controllare se nel frattempo ho casa gelida oppure no. Però devo dire che questo è un mondo ancora un po' complicato, mancano ancora alcuni tasselli nell'ecosistema. Enrico, invece questa settimana noi abbiamo parlato moltissimo di cinema, perché candidature agli Oscar, abbiamo già dato un po' di consigli, poi sentiremo anche Franco D'Assisi. C'è qualcosa su questo? Bravissima. Allora, non si parla d'altro che di 4K, cioè ormai il 4K lo diamo per scontato, tutti i televisori sono 4K, cosa che abbiamo detto più volte, sia a 2024 ma anche a Sabato del Villaggio. Se abbiamo un televisore 4K ma non abbiamo i contenuti 4K, è un po' come il visore, sì, bello il visore, se non ci sono ma i contenuti, cosa dobbiamo farci? Bravissimo. Certo. Allora, stanno uscendo contenuti 4K. Ah, diciamo, 4K, per chi non lo sapesse, giusto, è una definizione altissima dell'immagine. Quattro volte superiore l'alta definizione. C'entra nulla al 3D, cioè non è tridimensionale, no, è solo una immagine... molto più definita. Diciamo che i pixel, quindi i puntini che compongono l'immagine del nostro televisore, noi andiamo vicino al televisore, vediamo che ci sono tanti puntini. Allora, pensate che questa definizione, già l'alta definizione è quattro volte la definizione standard, quella a cui siamo abituati purtroppo sul digitale terrestre. Qui quadruplichiamo di nuovo, quindi una definizione veramente incredibile, tanto che se noi abbiamo un televisore, che ne so, 40 pollici e lo guardiamo da 3 metri, non ce ne accorgiamo quasi di questa definizione. Cioè dovremmo... Certo. Cioè capiamo la definizione dell'HD, quello normale. Quella sì, ma... infatti questo è uno dei motivi per cui i televisori diventano sempre più grandi, perché noi ci possiamo permettere di prendere un televisore molto grande, un 70 pollici, un 80 pollici. Non mi ci sta in casa. Starci, no, ma ci si fa spazio. Starci vicino e poter godere di questa definizione, cioè non vedere i pixel. Cioè, da piccoli ci dicevano non stare vicino al televisore, no. Adesso noi ci vendichiamo. Esatto, perché... bisogna stare vicino al televisore, no, veramente le immagini fantastiche, bellissime. Molto reali, cioè quasi simili a quello che noi vediamo con i nostri occhi. Allora, a proposito di tutta la catena, i contenuti, al Consumer Electronics Show abbiamo visto per la prima volta i primi lettori Blu-ray 4K o Blu-ray Ultra HD. Il 4K viene chiamato anche UHD o Ultra HD. Per la prima volta li abbiamo visti, li hanno presentati, c'erano negli stand sia Samsung che Panasonic, e la seconda notizia è che usciranno sul mercato. Quindi sono prodotti veri che dovrebbero uscire tra marzo e giugno, secondo trimestre, però ma diamogli una chance, potrebbero uscire anche un po' dopo in Europa, però non è detto, insomma, grosso modo entro l'estate, diciamo. E però a questo punto uno dice, va bene, ma dentro questi lettori, no, cosa appunto lettori infilo? 4K per Blu-ray 4K, esattamente, quindi per la prima volta sono stati annunciati i dischi Blu-ray, immagino che sia un termine che è conosciuto da molti, sono i DVD moderni. Sì, a volte dico ancora DVD quando parlo dell'home sì. Video, per essere... Esatto. Io spero che molti dei nostri ascoltatori abbiano in casa Blu-ray, che abbiano visto ogni tanto qualche immagine Blu-ray, perché non c'è alcuna possibilità, oltre che il Blu-ray, di vedere immagini in alta definizione con quella qualità. Oggi la qualità maggiore ce la garantisce il Blu-ray. A questo punto però arrivano anche oltre che i lettori, anche i contenuti. Allora, l'alleanza che raggruppa, in realtà ci sono due alleanze, comunque diciamo tutta l'industria dei contenuti ha annunciato che entro la fine dell'anno ci saranno circa un centinaio di titoli in Blu-ray Ultra HD. Quindi ci saranno un centinaio di titoli da infilare dentro a questi lettori. Con questi lettori li colleghiamo ai televisori 4K e godiamo di uno spettacolo fantastico. Il termine alleanza dei contenuti è vagamente inquietante, cioè me l'immagino attorno a un tavolo Spectre dei contenuti che decide. Sì, sì, c'è la Ultra HD Alliance. Sono andata a una conferenza stampa con dei personaggi particolarmente strani, perché sono dei lobbisti di questa industria, che si incontrano, definiscono gli standard, si mettono d'accordo. Non sempre si mettono d'accordo, ogni tanto si mettono d'accordo, e questo comunque è un accordo, perché entro la fine dell'anno avremo anche questi contenuti. I prezzi dei lettori dovrebbero essere partire da 300-400 euro fino all'infinito. La cosa interessante è che questi dischi usciranno in un cofanetto che avrà sia il Blu-ray tradizionale, quindi doppio disco, sia il Blu-ray tradizionale che questo nuovo Blu-ray 4K, ma cioè quest'altra novità, avremo il diritto, la possibilità di scaricare la copia digitale. Quindi costeranno un botto, ma ci daranno un sacco di materiale. Sono una vecchia volpe. Dovrebbero costare una trentina di dollari, una roba del genere, però speriamo di... C'è un'altra cosa interessante, che non ci sarà più il codice di area. Allora, DVD, nei Blu-ray, c'è il codice d'area, perché se io compro un lettore in Europa e compro un disco in Europa, lo posso vedere solo caso. Se lo infilo nel lettore americano non me lo fa vedere, viceversa. Solita storia dei diritti che i proprietari di diritti vogliono mantenere. Solita storia che tutti da anni modificavamo il lettore DVD con la paura di rovinarlo per i DVD che ci compravamo in America, diciamo, ce lo facevamo. Esatto. Allora, la novità è che, poi vedremo al lato pratico quando usciranno sul mercato, però pare abbastanza, insomma, è stato detto a Las Vegas che non ci sarà più il codice area. Quindi se io compro un Blu-ray 4K negli Stati Uniti, un disco, lo posso vedere nel mio lettore in Europa. Ok. E questo potrebbe essere sicuramente interessante. E la cosa sembra paradossale, perché su questo disco fisico scompaiono le limitazioni geografiche e riappaiono le limitazioni geografiche su Netflix. Allora, Netflix ha annunciato questa settimana... Allora, facciamo una cosa, facciamo un po' di suspense. Diamo la linea al traffico e così ci dici cosa è successo, sì, con Netflix. Che è veramente incredibile. Sono molto, molto, molto curioso. Dai, tra pochissimo, traffico. Il sabato del villaggio. I vostri messaggi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Mi ha fatto molto sorridere Matteo da Salerno, che dice con precisione: i futuri Blu-ray costeranno un botto, ma non ci daranno tante cose in più, ci daranno semplicemente tre copie dello stesso film. Di fatto sì. Sì, certo. Detto con una maggiore definizione, però sì. Però di fatto ragione, quel film lì. Domanda, io non so se tu sai la risposta, però te la butto lì. Ci chiede qualcuno se esiste un drone subacqueo. Interessante questo. Non ho idea. Io non lo so. Direi, secondo me esiste, però a memoria non... Noi facciamo studiare Enrico Pagliarini. A Las Vegas non ne ho visto, ho visto solo cose che volavano. Adesso facciamo studiare se c'è qualche bati sì, drone. Ci deve essere, sì sì. Netflix, perché Netflix ha annunciato, annuncio trionfale, siamo la prima TV globale al mondo. 130 paesi, siamo dappertutto, eccetera, eccetera. Poi bisognerebbe fare una discussione, ma ci impiegheremo una mezz'oretta, sul business model di Netflix, che li obbliga di fatto a questa espansione molto forte, soprattutto nei primi anni, per diventare forte, per poter negoziare diritti con una certa forza. Insomma, certo. Però, a parte questo, la notizia di questa settimana è che Netflix ha annunciato un giro di vite, chiamiamolo così, per tutti quelli che dal proprio paese di residenza vanno all'estero e utilizzano dei sistemi, che poi spieghiamo cosa sono, per vedere i contenuti del proprio paese, oppure quelli che, pur rimanendo nel proprio paese di residenza, vanno a vedere il catalogo di Netflix negli altri paesi. Allora andiamo per ordine. Andiamo per ordine. Allora, molti dei nostri ascoltatori sapranno che quando noi andiamo all'estero e vogliamo magari vedere i contenuti della Rai in streaming, molto spesso succede questo, che questo contenuto è bloccato nel paese in cui ti trovi. Bravissima. Oppure con Sky Go, io sono in un paese, sono in America, voglio vedere la partita perché sono abbonato. Esatto. E ti dice: no, guarda, in quel paese non abbiamo i diritti e quindi ti blocchiamo. Questo è un tema di cui l'Unione Europea si sta occupando, si chiama geoblocking, quindi il blocco dei contenuti a livello geografico, e in teoria in Europa sarebbe auspicabile che venisse superato questo blocco, però ancora anche all'interno della stessa Unione Europea c'è, perché i diritti sono su base locale, intesa come nazioni e stati, e quindi succede questa cosa. Allora, ci sono dei programmini molto semplici da utilizzare che creano una linea privata, si chiama VPN, Virtual Private Network. Ma legale? Allora, c'è un po' di dibattito sul fatto che sia legale. Stiamo consigliando qualcosa di... No, allora, le VPN sono legali, nel senso che ci sono, cioè, lo si fanno anche per lavoro, uno si collega alla propria rete aziendale tramite questi strumenti. Quindi questi strumenti di fatto che cosa fanno credere a questi sistemi? Che io sia in Italia. Cioè, io vado in Olanda, utilizzo uno di questi programmini dicendo: fa finta che io sia in Italia, e i sistemi di streaming credono che io sia in Italia. Netflix ha annunciato che nelle prossime settimane utilizzerà dei sistemi che conoscono solo loro, ma sicuramente possibili, per bloccare questa attività. Questa attività la si fa anche non solo quando si va all'estero per poter accedere ai propri contenuti. Appunto, dicevo, se io sono in Inghilterra e voglio vedere la partita, io l'ho pagata, non sto piratando, sono abbonato. Esattamente, però Netflix lo bloccherà questa attività. Cioè, se io sono abbonato a Netflix in Italia e vado in Olanda... Vedi solo le cose olandesi. Ok, beh, devo dirti, il catalogo di Netflix non è al 100% diverso, però ci sono delle differenze. Sì, allora, infatti i titoli di Netflix sono uguali per tutto il mondo, quindi tutte le produzioni originali di Netflix sono disponibili in tutto il mondo, ma ci sono molti titoli di film che sono geobloccati rispetto a determinati paesi. La stessa cosa la si fa anche quando uno vuole vedere un contenuto che non è disponibile nel proprio paese, che ne so, in Italia non è disponibile, e vuole andarla a vedere nel negozio americano, e quindi verrà bloccato. Però la cosa paradossale è che appunto un servizio streaming globale, che in teoria non dovrebbe avere dei limiti, dice: no, adesso glieli mettiamo i limiti, perché evidentemente chi detiene i diritti è sempre una questione di diritti, lamentato. Certo. E invece in questi nuovi Blu-ray, che sono fisici, quindi hanno una distribuzione fisica e potrebbero essere controllati, è stato deciso di non mettere più questi codici di area. non so che spiegazione dare, però è comunque una situazione paradossale che questo mondo complicato dei diritti, perché poi parliamo di diritti, quindi non parliamo di tecnologia, la tecnologia è al servizio dei diritti. Non parliamo né di arte, né di contenuto, né di tecnologia, parliamo di appunto di proprietà intellettuale. Carlo Nardone via Twitter, al mio account chiocciola Marta Cagnola, ma anche al tuo e _ Pagliarini. Ci sono molti droni subacquei per la ricerca, anche italiani. Sì, sì, sì, certo, sì, sì, sì. Però non sa se ce ne sono i consumer. No, questo ci... anche sì, militari, sì. Cioè un mondo, sì, sì. Però... Parrot a hydrofoil o hydrofoil, io non... immagino che sia una... Sì, una specie di sottomarino, sì, sì. Subacqueo. Abbiamo solo un minuto, quindi Enrico, non ti chiedo della privacy, anche se dovevi darci delle... Beh, lo facciamo la prossima settimana. Ci sono un po', oltre che di notizie, ho visto... visto in aeroplano una persona che aveva un adesivo sulla parte alta del portatile, mm-hmm. E ho chiesto: ma come, cioè, mai? Non come il mio tablet che è tutto scocciato perché l'ho fatto cadere. Perché l'hai fatto cadere? No, no, no, sì. Lui aveva proprio un adesivo sopra la parte. Ma perché l'hai messo? Perché era sopra la videocamera. Perché hai messo. Interessante. E ho detto: ma si sa mai. Ah, ne parliamo, cioè, la prossima settimana. Che qualcuno lasciamo mi entra nel computer e mentre il io sono sospeso in casa con il computer magari acceso, qualcuno questo mi guarda, anonimo accede alla videocamera, un po' una scena, beh, da film. Vado però a casa a mettere l'adesivo. Molte delle cose che ci sono nei film non sono completamente inventate. Con questa affermazione inquietante, Enrico, 2024, podcast radio24.it, così ti riascoltiamo e riascoltiamo anche la puntata, immagino che tu abbia dedicato ancora. Abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante anche sulle startup italiane, molto gradevole. Radio24.it, l'appuntamento con noi la prossima Ciao. Settimana. Enrico, adesso parliamo di musica, stai con noi, ascolta. Stiamo ascolta. Questo, non mi muovo. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes three pearls. Avrete riconosciuto la sua voce perché lei è Skin, è stata protagonista per una stagione trionfale di X Factor come giudice, ma lei ovviamente è la grande leader degli Scancanensi, che da qualche tempo non si facevano sentire discograficamente, adesso sono tornati insieme alla grande, hanno presentato ieri a Milano il loro sesto disco che si intitola... Adesso il titolo è difficile da pronunciare. Anarchitecture, anarchia e architettura insieme. Li abbiamo incontrati e ci hanno raccontato tutto del loro ritrovarsi e del loro fare un nuovo disco, Skin Ace, degli Scancanensi. You know, we always have a good time. We're really good friends and we hang out a lot. So whatever we do, you know, ci divertiamo sempre. Siamo ottimi amici, passiamo un sacco di tempo insieme. Credo che siamo in una posizione davvero privilegiata. Siamo una band da 20 anni, facciamo ancora album, abbiamo una stanza piena di gente davanti a noi per la presentazione. Just a handful of bands that are coming out of England that can do that. Coldplay's one of them. Ci sono pochissime band inglesi che possono farlo, non lo so, come i Coldplay. Per noi è davvero un privilegio e poi ci godiamo il momento. All'inizio non ci riuscivamo, non ci godevamo il momento perché eravamo sempre preoccupati di quello che avremmo dovuto fare. Adesso ci divertiamo molto e facciamo anche della grande musica. Now we just have fun. We make great music. È stato un anno sulle montagne russe. I would like to ask you, what are your feelings towards Italy now? Cosa provi adesso per l'Italia? Well, you know, it's interesting living in Italy. È molto interessante vivere in Italia. Vivere a Milano mi ha dato tutta un'altra prospettiva dell'Italia. Certo, prima ci tornavo spesso, ma sempre da turista, da visitatrice. Ma quando vivi davvero in un paese, vivi la gente, allora è una cosa diversa. Una delle cose che mi piacciono di più è che tutti in Italia mi insegnano l'italiano. Ad esempio, vai in un bar e... Sono uomo. È carino, no carina. You know, and everybody was teaching me Italian on the street and that, in a very... Mi danno tutti lezioni di italiano per strada, ma in maniera così dolce e affettuosa, mai aggressiva. You're doing it wrong, just in a kind of, oh, this is how you do it, Skin. Like the whole country was helping me speak Italian. Non mi dicono mai, hai sbagliato. Mi dicono, Skin, si dice così. È come se tutto il paese mi insegnasse l'italiano. È davvero divertente. Non conosco nessun altro paese al mondo in cui potrebbe succedere. Where that would happen. It's one of the best titles in the last few months. È uno dei titoli più belli in the last few years. Yeah. Well, we like to, you know, we have fun with language in Skankachi. I think Cass is probably the best person in the band for making up the. Negli Skankanensi ci divertiamo tantissimo con il linguaggio. Forse Cass è il più bravo a inventare parole pazzesche. Inventare una parola nuova è come comporre una canzone. È un'attività creativa, molto originale. So, this, you know, title with the smashing together of two words, it represents a lot of things. Abbiamo creato questo fracassando insieme due parole e rappresenta molte cose. Ma è anche molto Skankanensi, per il suo essere così creativo, anche solo nel titolo. E pensa, è nato proprio in questo hotel. Yeah, we did the... Sì, io ero architettura e lui anarchia. Ritroveremo Skin Ace degli Skankanensi durante RadioTube, perché ci hanno regalato anche il loro ricordo di David Bowie. Ne parleremo molto in RadioTube dalle 17 alle 18. Adesso è il momento di GR24. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Il sabato del villaggio. E dopo una prima ora ricca, ricchissima del sabato del villaggio, torniamo insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24 con la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Per contattarci gli sms 349-238-6666, stesso numero per i vostri WhatsApp. Invece via Twitter il mio account è @MartaCagnola oppure l'hashtag cancelletto ISDV. A proposito di sms, c'è un ascoltatore che si lamenta perché abbiamo detto nella prima ora che Sylvester Stallone si merita l'Oscar. Allora, stai con noi, continuiamo a parlarne, ma tra poco, perché cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? La TV, sempre di successo i programmi che parlano di cucine e di ristoranti, gli chef sono i nuovi sex symbol. Con noi uno dei grandi protagonisti della cucina e della TV, Alessandro Borghese. I libri di un momento con Alessandra Tedesco, i consumi con Maria Luisa Pezzali come di consueto. Ma prima, allora, ascoltatore che al 349-238-6666 dice: Stallone non è da Oscar perché è un attore che fuori da Rambo e Rocky non ha fatto un film decente. Ti sembra un attore completo? Driven, ve lo ricordate? E a questo proposito andiamo a sentire cosa esce questo fine settimana al cinema. Abbiamo parlato di Oscar e di Golden Globe, adesso andiamo in sala. La gente muore sul ring, tuo padre è morto sul ring. Io non l'ho conosciuto. Ho sentito di un terzo match tra te e Apollo, ma a porte chiuse. Come fai a saperlo? Sono suo figlio, volevo chiederti di allenarmi. È tutta la vita che combatto. È il mio destino. Ogni singolo pugno ho imparato a tirarlo da solo. Sono pronto. Lo vedi quello? È l'avversario piuttosto che dovrai affrontare. Della verità sul ring e della verità nella vita. Fammi vedere qualcosa. You should have never doubted me. I'ma run to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. E finalmente esce nelle sale anche questo Creed con Sylvester Stallone, candidato all'Oscar. Io sono molto curiosa, anche perché io sono assolutamente Team Sylvester Stallone, ma lo andiamo a vedere questo Creed? Vale la pena? Lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Buonasera Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, beh, assolutamente, perché comunque è un film che anche nella sua semplicità, nella sua linearità, mette d'accordo il pubblico che ha amato Sylvester Stallone e soprattutto Rocky e tutta la sua lunga epopea, e anche un pubblico magari più giovane che cerca un pochino più l'action movie. Il genere dei film sulla box è un genere a parte, potremmo dire, perché può essere interpretato in chiave d'autore, pensiamo a Martin Scorsese, al Toro Scatenato, ma può essere anche estremamente popolare, così come è stata la saga di Rocky Balboa, che, voglio dire, ha reso omaggio e onore alla città di Filadelfia, a Sylvester Stallone, che proprio tu citavi i Golden Globe, nel ritirare il premio proprio lo ha dedicato al suo amico immaginario migliore, che è stato proprio Rocky Balboa, una sorta di ombra con la quale Sylvester Stallone è cresciuto, lo ha fatto diventare anche un musical non di grandissimo successo a Broadway. Qui siamo tra l'altro anche legati alla storia, perché il protagonista, visto che Sylvester Stallone il premio l'ha vinto come non protagonista, anche se secondo me lui è il vero protagonista del film, ma il protagonista ufficiale, diciamo così, è Adonis Johnson, figlio di Apollo Creed, che fu prima fiero avversario, poi diciamo allenato da Sylvester Stallone, da Rocky, che si sente ancora un po' in colpa per quel maledetto match di Rocky 4. Ebbene, il figlio illegittimo e che non ha mai conosciuto il padre, Adonis Johnson, diventa pugile, vuole fare il pugile, un ragazzo molto irrequieto, e si consegna di fatto, viaggiando da Hollywood a Filadelfia, nelle mani di Rocky Balboa per fargli fare il suo allenatore. Dopo qualche riluttanza, alla fine Rocky accetta e porterà in alto il giovane. Ecco, questa è la storia, molto semplice, però ripeto, anche se secondo me magari manca un po' di poeticità che in Rocky Balboa avevamo visto nel precedente episodio, è comunque un film che si lascia guardare fino in fondo. Questo fine settimana esce anche Revenant, l'abbiamo citato in apertura di Sabato del Villaggio, torneremo tra l'altro a parlarne perché è tratto da un libro importante, andiamo a vederlo, vale la pena andare a vedere Revenant, Franco? Assolutamente, ed è un film anche questo che è reduce da una buona performance ai Golden Globe, 3 statuette vinte sulle 4 a cui era candidato, è un ottimo, come dire, è un ottimo risultato, chissà se per una volta finalmente foriero di un Oscar da protagonista per DiCaprio. È un film di sopravvivenza, di avventura, di forza, girato in quelle pianure innevate e tra l'altro anche girato in condizioni difficilissime. Il regista Alejandro González Iñárritu, fresco vincitore dell'Oscar per Birdman, ha girato sempre con luce naturale e chiaramente le condizioni della natura contavano molto in queste riprese, che sono state costellate di problemi, notizie negative eccetera. Insomma, un'avventura anche girarlo questo film, che rilancia proprio quel genere un po' epico, appunto adventure, che forse mancava da un po' di tempo a questi livelli e che appunto potrebbe consegnare finalmente questa soddisfazione a Leonardo DiCaprio. Fine settimana importante in sala anche per i film italiani. Sì, i film italiani che vedono ritornare sul grande schermo uno dei loro più grandi registi, parliamo di Giuseppe Tornatore, che torna appunto con La Corrispondenza con Jeremy Irons e Olga Kurylenko, dopo La Migliore Offerta, che è stato un film molto apprezzato dalla critica e anche dal pubblico, la storia di una giovane studentessa universitaria che, dopo aver conseguito questa laurea in astrofisica, si impegna invece nel ruolo di stunt sul cinema, e di questo rapporto segreto extraconiugale per lui con un professore sessantenne di grande fascino interpretato da Jeremy Irons. A un certo punto il professore scompare, e non vogliamo dire di più, scompare, e però il rapporto con la ragazza va avanti, come per via di una serie di messaggi SMS che continuano a tenere viva questa fiamma, anche se dell'uomo non sembra esserci più traccia. Insomma, qualcuno che non c'è più ma virtualmente c'è, e qualcuno invece che c'è e virtualmente scompare, come lei nel ruolo di stuntman. Idea interessante, attori, devo dire, Benino, Olga Kurylenko, così così Jeremy Irons, ma soprattutto peccato che non ci sia il salto di qualità per andare oltre un plot che potrebbe essere davvero intrigante, come sempre una riflessione d'autore di Tornatore anche sul mondo che viviamo, sul nostro modo di comunicare, forse per colpa anche di dialoghi francamente in certi momenti totalmente improbabili. E questo è un po' il limite più grosso di un film che non ha ricevuto per il momento assolutamente il plauso della critica, ma che secondo me sarebbe giusto marchiare come un film negativo e basta. Ci sono tante cose interessanti dentro, forse potevano essere sviluppate meglio. Grazie Franco, quindi ci sentiamo più tardi dopo le 18 con la Rosa Purpurea. Rosa Purpurea, come sempre insieme, giocare, sentire i film, informarsi su come stanno andando le cose e anche una bella, un bel cappello introduttivo proprio sui Golden Globe, cosa ci rimane in prospettiva Oscar con l'amica e collega Sara Sagrati, insomma come sempre tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Grazie, ciao Franco. Grazie Marta, un saluto e alla prossima settimana. Eccoci qui, allora, c'è qualcuno che ci scrive e a me piace molto questo messaggio via WhatsApp. Un giorno faranno un film, Matteo, sul make-off di The Revenant. Effettivamente The Revenant è un film immenso. Io l'ho detto, io mi sono annoiata, ma perché io mi sono un po' annoiata, perché è un film visivamente bellissimo, però con la lotta di un uomo da solo contro le forze della natura. Ecco, è un film, forse è un film da maschio, forse è un film da maschio, Matteo, però è vero, un giorno faranno forse un film sul make of di The Revenant, come ha detto il nostro Franco D'Assisti, che ritroveremo poi dopo il GR delle 18 con la Rosa Purpurea. È un film girato in maniera molto molto molto complicata. Invece cosa stiamo ascoltando? Beh, volevo, abbiamo parlato di Oscar, questa invece è la canzone candidata a miglior canzone, è quella Song Number 3 di Youth di Paolo Sorrentino. Era così per fare un in bocca al lupo a Paolo Sorrentino. Invece l'altro candidato italiano, per fare un po' gli sciovinisti, è Ennio Morricone. Io vi anticipo già che avremo una rivelazione di Giuseppe Tornatore all'interno del nostro Sabato del Villaggio, che ci racconterà più tardi dei retroscena del suo lavoro con il maestro Morricone, molto molto divertenti. Quindi state con noi ancora Sabato del Villaggio, una brevissima pausa, importantissime indicazioni per chi sta viaggiando, traffico su strade e autostrade, tra poco. Il Sabato del Villaggio. Infatti l'ho detto che ognuno la pensa come vuole su Revenant. Daniele da Cuneo dice: DiCaprio vincerà alla grande, 2 ore 36 di puro godimento e interpretazione super. No, ma io non pretendo di aver ragione su Revenant, ognuno la pensa come vuole, appunto. Poi è giusto, diamo questo Oscar a Leonardo DiCaprio, cioè io sono davvero favorevolissima al fatto che questo povero Leonardo ce l'abbia questo suo Oscar che noi aspettiamo da molto molto tempo. Ancora i vostri messaggi al 349-238-6666. I droni sottomarini non hanno un profilo consumer. Allora, questo lo leggo per bene, per il fatto che la propagazione delle onde in acqua è complessa alle frequenze game, quindi è necessario un comando a cavo. Poco divertente, non garantisce la libertà di azione che un radiocomando offre. Matteo da Pavia, io l'ho letto così com'è perché io non ci capisco nulla. E il nostro Enrico Pagliarini ormai è uscito, è lì che si... No, in realtà ve lo dico, vi dico in retroscena. Enrico Pagliarini, io lo vedo dietro il vetro, che sta chiacchierando con Federico Taddia, che è rimasto in radio questo pomeriggio. Chissà cosa si stanno raccontando Enrico Pagliarini e Federico Taddia. Non lo possiamo sapere perché sono dietro al vetro. E poi ancora c'è una ascoltatrice, dico ascoltatrice perché vedo la foto profilo di WhatsApp e quindi credo proprio sia un'ascoltatrice. Com'è andata la terza puntata di Don Matteo? Un filino meno bene. Delle altre, aspetta, fammi guardare, 8.371.000 pari al 29,63% nel primo episodio, 32,66% nel secondo episodio. Sai che c'è chi dice che è perché non c'era Belen e quindi sono rimaste davanti al televisore solo le donne? Vabbè, ma questa è una cattiveria, questa è una cattiveria che ho letto molto sui social, che però mi ha fatto molto ridere. Allora, abbiamo parlato di cinema, tanto, abbiamo parlato di tecnologie, abbiamo parlato di consigli per andare a mangiare bene a Roma, tanti i temi nel nostro sabato del villaggio. Adesso però è il momento di parlare di consumi. C'è solo una persona che può interpretare quell'espressione. Sono fuori moda. Ho perso il fuoco. Tu sei Derek Zoolander. Hai fermato una stella da lancio con un'espressione. Flashami la bellissima Magnum. Fermo. No! Magnum, ora! Ah! Oh! Prendi questo! Oh! Tequila! Oh! Puoi provare con un asciugamano? Sali, flashami la bellissima Magnum. Fantastico. Perché Zoolander 2? Buongiorno Maria Luisa. Beh, perché allora, intanto, posto che Zoolander 2 lo aspettiamo tantissimo e che Zoolander andrebbe bene comunque, sì. Ma perché in questo caso? Sì, io non vedo l'ora, Marta, veramente. 12 febbraio anni controllato. Di attesa. Ah, sì, non vedo l'ora. Beh, un saluto a tutti innanzitutto. Sì, perché questa è la settimana dedicata alla moda maschile. Si è appena chiuso PT Uomo a Firenze, a Milano lo sappiamo, è in corso Milano Moda Uomo. E allora mi è capitato sotto mano una ricerca che dice una cosa molto interessante. Soprattutto ribalta i luoghi comuni. È una ricerca commissionata da un sito di e-commerce specializzato nelle vendite evento online, vanprivé.com. Questa ricerca ci dice che gli uomini online spendono più delle donne. No, no. Non ci potranno più accusare di sperperare soldi quindi online. Quando tu torni a casa con le braccia cariche di sacchetti e ti accoglie uno sguardo di disapprovazione. Esatto. In realtà è tutta una farsa, perché avrà speso un sacco di soldi in più online lui. Online perché è più comodo, più agevole, più veloce, insomma, e quindi gli uomini sfruttano alla grande questa opportunità. E tra l'altro non comprano solo per se stessi, ma per tutta la famiglia. Beh, quindi, questo, beh, buono. Questo, insomma, questo ruolo altruisti. di garante degli acquisti della famiglia era un ruolo tradizionalmente assegnato alla donna. Anche in questo, evidentemente, abbiamo raggiunto la parità dei sessi. Sarà mica un po' di digital divide che le signore dicono al marito: compra tu, fai esatto, tu. Esatto, fai tu, perché oddio, no, non vediamola così, dai, vediamo dall'altra parte, che anche noi magari, insomma, vogliamo andare nei camerini, insomma, sì, in questa o sarà che magari noi vogliamo provare di più. Esatto, guardiamo le esatto. vetrine. Oppure entrambe le cose, insomma, perché noi ci dedichiamo a entrambe le attività. Comunque, secondo questa ricerca, gli uomini online hanno innanzitutto sessioni d'acquisto molto più veloci delle donne, quindi non scade il tempo con il carrello sempre continuano a scadere e poi devo rifare tutto, perché hanno decisioni molto più rapide, insomma, e questo depone a favore ovviamente della finalizzazione dell'acquisto. E poi spendono, pensa Marta, tra il 10 e il 20% in più rispetto alla clientela femminile, quindi un dato interessante. Ma che cosa comprano di più? La mia curiosità era: che cosa compreranno mai questi maschietti? Al primo posto, e qui è un altro segno dei tempi della parità, al primo posto ci sono le scarpe. Sai che l'avrei indovinato? Dai, l'avrei indovinato. Perché io sorprendo molti colleghi che magari, quando stai aspettando una telefonata o qualcosa, apri un sito di e-commerce e hanno sempre aperto siti di e-commerce di scarpe, pagine di scarpe. Ah, vedi? E loro poi subito zac, sanno il numero, poi le comprano magari sempre uguali, scarpe. Infatti, sì, scarpe sì. Al primo posto, poi abbigliamento sportivo, vabbè, anche lì insomma ci poteva arrivare, abbigliamento uomo in genere, poi ci sono vino e gastronomia, effettivamente questo forse nelle donne questo, ecco, non perdono sì, troppo forse, tempo, sì. E anche poi nell'apposito reparto del supermercato trovi più uomini, insomma, lì che si dilungano. E all'ultimo posto prodotti high tech, forse online quelli un po' meno, perché loro i prodotti high tech sono un po' come per noi l'abbigliamento, insomma, devono vogliono andare perdersi. A toccare questi, gli acquisti che fanno per se stessi. Sì, gli acquisti che fanno per se stessi. Per la famiglia al primo posto c'è, vabbè, questo una nota di merito, l'abbigliamento donna per i regali, quindi insomma comprano molto. Mi piace, anche mi per piace. Le loro, per le loro compagne. Poi abbigliamento e accessori bambino, e qui un particolare molto divertente, Marta, magari spesso è una grande tendenza questa, in coordinato papà figlio. Beh, c'è una famosa marca di costumi da bagno che fa sempre le vetrine papà figlio. Esatto. Non lo so se mi piace, non lo so. E però c'è anche al femminile, mamma figlia, questa è una grande tendenza che alcuni brand, pensiamo a Petit Bateau solo per citarne uno, hanno alimentato negli anni. È comunque una tendenza. Non lo so, la nostra generazione c'è. Aveva i vestiti uguali tra fratelli, sorelle, ed sì. Era una cosa che io odiavo, quindi non sì. so se mi piace. Io da gemella, però un fratello gemello. Capirai appunto che insomma la conosco questa tendenza. Sì. e infine lingerie donna, e qui siamo sempre ai regali, questo beh, è divertente. No, poi sai, online, perché così non si fa sorprendere. Esatto. Il pacchettino. E i gioielli, che è un settore che sta emergendo. Ma dove saranno tutti questi uomini così generosi? Vedi? Non lo so. All'ascolto ce ne sono sicuramente tantissimi. Perché devo dire che effettivamente lingerie, gioielli e abbigliamento che spendono online, bello, mi piace questa, beh, insomma, ricerca. Evviva, evviva così cambiare il pensiero comune, insomma ribaltare i luoghi comuni. È sempre bello scoprire che i numeri invece raccontano una storia diversa. Nei consumi i numeri riservano sempre sorprese, sono belli da analizzare. Adesso però è il momento dei nostri consigli anticrisi. Andiamo a salutare dal benvenuto la nostra Cristina Lazzati. Buon pomeriggio. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a voi. Cristina, qual è il consiglio anticrisi, la strategia, il suggerimento che ci porti questa settimana? Guarda, oltre che anticrisi rispetto al portafoglio, è anche un'anticrisi rispetto alla montagna di cose, non so voi, io sicuramente, che accumuliamo in armadi che non apriamo più, in cantine in cui non vogliamo più andare perché non ci si entra più. Insomma, abbiamo un sacco di merce accumulata, poi perché i figli crescono, vuoi che cambiamo abitudini, quindi il car boot market. Che cos'è il car boot market? Non è altro che il riempire il bagagliaio della propria auto e andare a questi appuntamenti che avvengono in tutta Italia, aprendo il bagagliaio e cercando di vendere, scambiare, regalare quello che abbiamo accumulato e che non è strausato, quello l'avremmo buttato via, ma che abbiamo conservato, e poi ci rendiamo conto che non andremo più a utilizzare. Beh, bellissimo, e poi comodo appunto al posto dei garage sale, Marta, insomma, apri il garage, in questo caso apri il baule, però fantastico, comodissimo. Comodissimo, anche perché poi, insomma, bene o male, ci sono appuntamenti un po' dappertutto. Vi segnalo, giusto perché è subito domani, ci sarà al parco di esposizione di Novegra a Milano e anche a Portobello Road a Napoli questo car boot. Hanno nomi poi leggermente diversi, c'è chi si chiama mercatino napoletano, c'è chi invece preferisce bagagliaio facile, mi pare che si chiami, insomma ci sono poi tanti nomi. Car boot market li accomuna tutti perché di fatto è stato preso a prestito da un'abitudine anglosassone che già lo praticava da tempo. Quindi se digitate, questo lo dico per gli ascoltatori, car, proprio C-A-R, boot, B-O-O-T, market, trovate poi di fatto indirizzi e modalità. Quello di Milano è a pagamento, ma tipo parliamo di 5 euro, e quello invece di Napoli è offerto da Portobello Road e quindi è gratuito. Tutto questo poi sono legate ad attività solidali, vi cito quello di Napoli, diamo vita alla solidarietà, e quindi c'è la possibilità quindi anche di fare del bene rispetto al fatto che insomma col bagagliaio pieno non tornate a casa, o li regalate o li vendete, fondamentalmente o li scambiate, perché poi c'è anche questa bellissima cosa dello scambio. A me serve una cosa perché non so, il mio bambino, il seggiolino oggi è quello dei 6 anni, ti regalo un seggiolino invece al bambino di 2 anni, quindi funziona benissimo. E poi intanto pensate alla bellezza di vedere una cantina vuota finalmente. Io l'ho fatto durante le vacanze di Natale, ho eliminato un sacco di cose e devo dire che a volte uno pensa di vendere il proprio usato online, ma è più complesso, bisogna spedire, bisogna aspettare un acquirente, invece questo mi sembra rapidissimo, soprattutto per le cose di piccole dimensioni che possano stare nel bagagliaio dell'auto. Sì, e poi aggiungiamoci il fatto che a Novegro, che è vero che adesso stavo vedendo, mi pare che siano 20 euro per le auto e 5 per gli scooter, perché c'è anche la possibilità di andare col bagagliaio dello scooter, ci sono delle regole da seguire. Allora, non ci sono né oggetti preziosi, quindi no catenine, queste cose qui, e neanche alimenti. Come giustamente sottolineano gli organizzatori, i sottoceti di nonna sono buoni di sicuro, ma ce li mangiamo a casa nostra. Sono un po' potenzialmente pericolosi, sì, perché botulino. Sì, no, io non mi fiderei. Esattamente, poi è necessaria una fotocopia di un documento di riconoscimento e andando poi sui rispettivi siti ci sono magari un sms da mandare, ma è tutto molto molto semplice, non è richiesta nessun tipo di, tu prima citavi il commercio online, ma devi fargli la foto, devi metterla, devi spedirlo eccetera. In questo caso si carica tutto sul bagagliaio e si passa una giornata, come dire, e nel caso di Milano che è più passibile di brutto tempo, al coperto, perché Novegro fino a marzo rifarà il coperto, poi si riprenderà invece nel parco all'aperto fino ad arrivare credo al 7 luglio, dove c'è addirittura quello stellato, per cui che va dalle 5 a mezzanotte, mentre Napoli e Roma, che per loro fortuna godono di un tempo migliore, invece sono all'aperto, però via via sul sito, nel caso piovesse, danno istruzioni per dove ritrovarsi al coperto. Comunque mi sembra anche una bella occasione per del tempo libero, anche fare una passeggiata, curiosare, sì, chi incontri, sì, quindi sì. Bella, bellissima, mi piace molto, ottima idea, grazie a Cristina Lazzati. Allora andiamo a cercare in rete Car Boot Market e andiamo a curiosare un po'. Grazie Cristina, al prossimo grazie sabato. Grazie a voi, ciao, buona domenica a tutti. Maria Luisa, l'appuntamento insieme ancora sabato prossimo, ma per essere a vere domani. Domani alle 22 andiamo, rimaniamo in tema, tra le altre cose andiamo a scoprire le tendenze della moda maschile che si sono viste sia a Firenze che a Milano. Alla prossima settimana. Allora, l'ascoltatore generoso si è palesato, un ascoltatore che scrive al 349-238-6666, io online spendo molto di più per lei che per me, scarpe, abiti, lingerie, gioielli. Leggenda, bravissimo, sono molto contenta, faccio anche complimenti alla tua lei perché insomma ha scelto bene. Ascoltatrice che mi chiedi se era la seconda puntata di Don Matteo quella di giovedì, no, perché ne vanno in onda due ogni sera, quindi il primo giovedì primo, secondo episodio, e il secondo giovedì terzo e quarto episodio. Fatemi mandare un bacio a Marco che mi ha mandato un WhatsApp poco fa, e ancora invece sugli sms che ho scoperto questa settimana, faccio fatica a guardare perché ho scoperto che aggiornavo male la pagina, me ne sono persi un sacco, sono un'imbranata. Carmen, tutti si chiedono quando mai Leonardo DiCaprio vincerà il suo damned Oscar dopo una lunga carriera, sarà la volta buona? Non lo so Carmen, che ci consiglia di guardare 10 Reasons Why, 10 ragioni per cui Leonardo DiCaprio non ha mai vinto un Oscar, che è molto divertente, ci consiglia di googlarlo. Carmen, adesso me lo googlo perché abbiamo una brevissima pausa, poi torniamo insieme. 349-238-6666 per gli sms, per i WhatsApp, chiocciola Marta Cagnola per Twitter, ma anche hashtag cancelletto ISDV. Ci ritroviamo tra poco pochissimo. Il sabato del villaggio. Quanto abbiamo parlato di Revenant, secondo me lo facciamo ancora tra poco, perché vedo un libro, vedo che Alessandra Tedesco ha un libro, secondo me parleremo ancora di Revenant, abbiamo sentito adesso lo spot, non l'ho fatto apposta, io non so che spot vadano in onda, però l'ho sentito adesso in cuffia, ma come vi avevo annunciato anche una chicca che ci ha regalato Giuseppe Tornatore. Perché adesso parliamo ancora una volta un po' di cinema, ma ovviamente parliamo in particolare con Alessandra Tedesco di libri. Siamo sempre un po' in tema Oscar, ne abbiamo parlato molto oggi perché sono appena arrivate le candidature. C'è un film che ha dominato 12 candidature alle statuette, Revenant. Ma Revenant è tratto da un libro, quindi io voglio sapere tutto, ma proprio tutto di questo libro di cui si parla tantissimo, da Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, e come sempre gli sceneggiatori ormai non hanno più fantasia e allora si rifanno sempre ai libri e ai romanzi che hanno avuto più o meno successo. C'è da dire che questo libro è passato abbastanza inosservato, era stato pubblicato in Italia da Einaudi nel 2014 con la traduzione di Norman Gobetti. Ricordiamo che l'autore è Michael Punke, si legge proprio così perché è originario tedesco, insomma. Quindi non punk come i punk. No, punk. Proprio con la E finale. Il libro è Revenant, la vera storia di Aglaas e della sua vendetta, insomma, come il film sostanzialmente. Dicevo, non aveva avuto un grande successo, anche perché c'è una ragione fondamentale. L'autore non è uno scrittore famoso, è sostanzialmente un diplomatico. Lui aveva lavorato, per esempio, per la Casa Bianca sotto il governo Clinton, sotto la presidenza Clinton, e anche attualmente ha un incarico di rappresentanza a Ginevra presso il World Trade Organization, presso insomma la WTO per intenderci. E quindi per questo doppio ruolo di diplomatico e di scrittore non ha mai voluto promuovere il suo libro, non ha mai voluto rilasciare interviste, non ha mai voluto fare pubblicità. Quindi un po' per questa ragione, un po' perché da noi insomma la storia non è molto conosciuta, mentre negli Stati Uniti è una storia vera. Insomma, questo Aglaas è nell'immaginario collettivo degli uomini che hanno fatto il West, il selvaggio West, di quegli eroi che proprio, insomma, non devono chiedere mai, Marta. Soprattutto riescono a fare le lotte anche con gli orsi. Con i grizzly, sì. Nel libro è un grizzly. E infatti siamo nell'America fra il 1823 e il 1824. Questo Glass è un esploratore, è un cacciatore di pellicce, prende parte a una spedizione lungo il fiume Missouri. È un territorio naturalmente selvaggio, selvaggissimo. È una zona di caccia degli indiani Sioux, e all'epoca insomma non si volevano molto bene gli indiani e i bianchi, mettiamola così. Proprio tantissimo. E allora praticamente un giorno lui viene attaccato da questo grizzly, quindi giustamente gli altri amici della carovana decidono: vabbè, ti molliamo qui, diamo un po' di soldi a due dei nostri perché ti facciano compagnia prima di morire e noi ce ne andiamo per i fatti nostri. Ma Glass è veramente al di sopra di tutte le possibilità, è un vero eroe, perché insomma anche gli altri due alla fine, alla vista degli indiani, gli ammazzano il figlio, se ne vanno, lo abbandonano, e lui riuscirà da solo, superando qualsiasi ostacolo, qualsiasi avversità anche atmosferica, a consumare la sua vendetta. Allora, io non ho letto il libro, ho visto il film, è esattamente è così. Uguale? Sì, è esattamente così. Allora, abbiamo già risposto alla domanda che fanno tutti: ma The Revenant ha qualcosa a che fare con la serie TV Le Revenant? No. No, tra l'altro la serie TV Le Revenant, fra gli sceneggiatori iniziali c'era il famoso intellettuale scrittore Manuel Carrère. Alcuni non lo sanno, ma era, come dire, una serie TV di, insomma, di alta qualità. Letteraria. Anche. Visto che siamo al cinema, questo fine settimana è uscito The Revenant, ma c'è un altro film che ha una vicenda particolare legata a un romanzo. Sì, io ti farei la classica domanda: è nato prima l'uovo o la gallina? In effetti, in questo caso non si può dire come nel caso dell'uovo e la gallina. Perché c'è questa abitudine, diciamo, di Giuseppe Tornatore di scrivere in genere prima i film e poi dalla sceneggiatura del film, diciamo, novellizza, quindi la trasforma in romanzo. Questa volta pare che abbia deciso di fare il contrario. Infatti, questo La corrispondenza di Giuseppe Tornatore, pubblicato da Sellerio, è considerato il vero primo romanzo di Tornatore, perché adesso io non ho messo il cronometro a Tornatore, non so che cosa abbia iniziato a scrivere prima e dopo, però il senso è che ha deciso prima di buttar giù nero su bianco il romanzo e poi di sceneggiarlo. Per questo in questo caso è nato prima il romanzo e poi la sceneggiatura del film. Non sempre, appunto, non era mai capitato per Tornatore una cosa del genere. Sì, anche perché spesso spesso esce un film e poi se ne trae un libro adattando la sceneggiatura che traviene dopo. Esattamente, invece in questo caso è nato prima il romanzo e poi secondo me 5 secondi dopo, però questo è un mio parere personale, è nato subito dopo la sceneggiatura del film e la corrispondenza. Romanzo di Sellerio, quindi serissimo come tutti i romanzi di Tornatore, non è un'operazione. Non è mica con le robe pizze e fichi. Ecco, allora ti cavo subito dall'impaccio di spiegare la trama. Ecco, non l'avrei saputo, cioè non si può spiegare questa trama senza... Allora sai cosa ho fatto io? Siccome sapevo che avresti parlato di questo libro, l'ho chiesto direttamente a Giuseppe Tornatore. Grazie Marta, grazie. Giuseppe Tornatore, la racconti tu agli ascoltatori, ecco, la trama della corrispondenza. Sentiamo come si è elevato d'impiccio. Allora sentiamo come Giuseppe Tornatore ha raccontato la corrispondenza. La corrispondenza è una storia d'amore, una storia d'amore assoluto, di amore totale, tra un uomo non più giovane e una ragazza molto giovane. La sorpresa, l'inghippo, chiamiamolo così, di questa storia d'amore, come capita in tutte le storie d'amore, è che è basata sulla distanza, sull'assenza di uno dei due. Questa distanza viene colmata dall'uso maniacale quasi della tecnologia, per cui i due personaggi continuano a convivere insieme anche se in realtà non sono fisicamente insieme. C'è la musica di Ennio Morricone. Oltre a questo fastidio costante del telefonino, c'è qualcosa di molto diverso, che è la musica di Ennio Morricone. Beh, se la può interessare, anche il motivetto che fa il telefonino è composto da Ennio Morricone. Ma incredibile, non lo sapevo. Anche quello è stato composto da E hai chiesto, maestro, scrivimi il trillo di un telefonino, lui cosa ha risposto? Me ne ha proposti diversi, io ho scelto quello che mi piaceva di più. Beh, straordinario. Devo dirti che io non lo sapevo, gliel'ho chiesto e lui mi ha detto: mi ero dimenticato di dire questa cosa nella... Quindi conferenza una nostra stampa. Esclusiva. Sì, mi ero dimenticato di raccontare che Morricone aveva scritto anche... Senti, il trio del telefonino. Puoi chiamare Morricone se mi fa una... No, perché io la suoneria è uguale a tutti i colleghi di Radio 24, quindi ogni volta che squilla un telefono non capisco mai se te ne se fa mio alcune e poi tu scegli. Ah, fantastico. Grande, aspetto Morricone, mi raccomando, aspetto la tua, come si dice, suoneria, ecco. Un altro candidato al premio Oscar, Ennio Morricone, però per la musica di Hateful Eight. Vabbè, consigliamo la corrispondenza a tutti i malati d'amore e di tecnologia. Di tecnologia, perché appunto è tutta una storia strana di amore e passione profonda che avviene attraverso mail, sms, forse anche whatsapp, ma del resto adesso è tutto così. È tutto così. Altro consiglio, Alessandra? Guarda, c'è un libro di cui si sta parlando in questi ultimi tempi. Io ti ho pensato subito perché è un libro romantico. Oh, e allora ho pensato al lato romantico di Marta Cagnola, mentre togliamo il lato cinico dell'Alessandra Tedesco e diamoci a una fase di rosa di romanticismo. Sì, dai. Consiglia qualcosa per le romanticone come me. Per le romanticone come te. Allora, è uscito e sta avendo un certo successo il secondo volume di una saga che si chiama Le Sette Sorelle, scritto dall'autrice irlandese Lucina Riley. Il primo si intitolava Il libro di Maya, adesso invece quello di cui si sta parlando si intitola Ellie nella tempesta. Che cosa si è inventata questo genio del male, secondo me? Allora, tra l'altro giovanissima, ha iniziato a scrivere a 26 anni, il suo libro più famoso anche qui in Italia da noi è stato Il giardino degli incontri segreti nel 2012. Si è inventata questa trama, infatti ne farà 7 di romanzi, adesso siamo solo al secondo. Ci sono 7 sorelle. Nel momento in cui il padre muore, queste 7 sorelle scoprono tutte di essere state adottate. Ah. Quindi ogni romanzo d'amore, rosa, di passione, eccetera, ha come protagonista una di queste 7 sorelle che deve ripercorrere un po' la sua storia. Come diciamo fil rouge di tutti questi romanzi, possiamo dire che sono storie d'amore, ci sono molti flashback naturalmente perché ognuna deve ritrovare il suo passato e questo passato finisce per sconvolgere la vita attuale dei protagonisti, ci sono i rimpianti dei primi amori, insomma questo è un pochino lo schema. Te gusta? Me gusta, poi 7 libri vuol dire che lei si paga il mutuo perché... a posto. No, adesso ce ne sono due, adesso gli altri devono ancora uscire, però sicuramente consigliato a chi ama sognare, insomma, queste storie d'amore romantiche, rosa, insomma, quelli che un tempo erano gli Harmony, fatti un po' meglio, ecco. Beh sì, ma ci vuole anche quello. Vorrei concludere citando almeno il fatto che sta per uscire uno dei libri di un'autrice attesissima. Sì, è un libro di cui si sta parlando già ora, prima ancora dell'uscita, perché uscirà il 22 gennaio. È il nuovo romanzo di Muriel Barberi. La ricordate, la francese che poi per un periodo ha vissuto in Giappone, che aveva scritto il bestseller L'eleganza del riccio. Beh, adesso è tornata dopo 9 anni, per questo è molto atteso questo suo romanzo, che si intitola Vita degli Elfi, pubblicato in Italia come sempre da EO. È un romanzo sul linguaggio misterioso della natura. Ci sono due personaggi, Maria, che vive in Francia e scopre di avere questo dono di comunicare con la natura. Invece nelle campagne italiane c'è Clara, che scopre invece di avere un particolare genio musicale. Viene mandata a Roma per sviluppare queste qualità. Non vi dico come, ma questi due personaggi si incontrano o comunque hanno a che fare l'uno con l'altro. E ti dico solo che Le Figaro ha scritto, Muriel Barberi ha scritto un inno e un'invocazione all'antica complicità di mani, menti e natura. Io questa me la gioco questa sera all'aperitivo, faccio già una bella figura, un inno, un'invocazione all'antica complicità di mani, menti e natura, così dirò, ma sì, io ma la sì, prossima settimana... Ma sì, esce Barberini, quella dell'eleganza, questo è un libro molto più letterario dell'eleganza del riccio, che aveva una scrittura più semplice, anche se è una trama molto forte, qui una scrittura più letteraria. Lo aspettiamo la prossima settimana, allora gli appassionati lo vadano già a prenotare. Alessandra, ultimo consiglio, il cacciatore di libri quando? Il cacciatore di libri, se ve lo siete persi stamattina alle 6:30 perché stavate dormendo, potete riascoltarlo questa sera alle 22, poi come sempre in podcast. Abbiamo ospite niente poco di meno che Carlo Lucarelli con il suo nuovo noir e poi uno scrittore americano che io amo molto che si chiama David Levitt. Alla prossima settimana. Baci. Il sabato del villaggio. Abbiamo parlato tanto tantissimo di cinema, fin troppo in questo sabato del villaggio. Non abbiamo smesso di parlare di cinema a Radio 24 perché dopo il giornale radio delle 18 ci sarà La Rosa Purpurea. Parleremo anche di Golden Globe perché li abbiamo citati poco in questa trasmissione, perché nel frattempo erano arrivate le candidature agli Oscar, quindi le notizie si susseguono e si inseguono, e quindi abbiamo parlato molto poco di televisione, ma ci sono cose belle, cose da segnalare. Intanto, facciamo i complimenti a MasterChef, che ha segnato il record di edizione con 1.273.000 spettatori medi e 36.000 tweet. La serata, l'ultima serata, quella di giovedì sera, è stata la più vista e twittata dall'inizio del programma, quindi MasterChef sta andando molto bene, ma su Sky c'è un'altra trasmissione che mi diverte molto. Sky 1 HD, martedì sera, ne mostriamo alla radio, come diciamo sempre in Radio Tube, che inizierà tra poco, dopo il giornale radio delle 17, ne mostriamo alla radio un pezzettino. Ristoranti, ristoratori, preparatevi, sta per iniziare la sfida. E la sfida si rinnova su Sky 1 HD. Alessandro Borghese, conduttore, accompagnatore e soprattutto giudice supremo, torna nell'arena culinaria della seconda stagione di Quattro Ristoranti. Vado a prendere i taccuini. Formula vincente non si cambia e in ogni puntata quattro ristoratori d'Italia, dall'Alpe allo Stretto, si scontreranno in un duello serrato fino all'ultimo piatto. Attacco d'ansia. Se lo spaghetto alle vongole ha attraversato la furia del tempo, un motivo ci sarà. Tutti contro tutti, dall'antipasto al dessert, fra tradizione e innovazione. Il polpo è fresco. Non è un caso che la scelta musicale del promo sia così bella, questa Viva la Vida, perché lui è anche un grande esperto e appassionato di musica. È con noi Alessandro Borghese. Buonasera Alessandro. Buonasera. Sei un grande appassionato di musica. Hai anche fatto delle playlist musicali, un programma in cui parlavi di musica e cucina, un CD. Sì, che va ancora in onda tutti i giorni, Kitchen Sound su Sky 1 all'ora di pranzo, dove cucino con la musica. Vedi, sono preparata. Invece qui quattro ristoranti. Martedì sera tu vai a controllare, a scoprire, non a controllare nel senso sono buone, ma ci fai scoprire delle perché quello non fa altro. Vai a scoprire dei ristoranti che vale la pena visitare. Io già so che vedere un po', ecco. Come è messa la ristorazione italiana. Sì, io so già che martedì prossimo vai a provare delle pizze. Martedì prossimo sono nella bellissima Napoli, quindi Napoli, andiamo a vedere un po' la pizza dove sta andando, quindi il futuro della pizza a Napoli, tra quattro campioni pizzaioli napoletani. Andiamo a fare un po' un giro di questa città veramente musicale, cioè un po' una città che ama mangiare, che ha creato un po' lo street food, che è patria della pizza, e facciamo un giro per tutte le pizzerie e capiamo un po' questa pizza in Italia dove sta andando. Dove sta andando la pizza? Location, servizio, conto e menu sono gli aspetti che tu analizzi in quattro ristoranti. Perché, ti faccio subito la domanda da 100 milioni di dollari, perché piace così tanto la cucina in TV? Ma diciamo che a cucinare, io dico sempre, è un atto d'amore, no? È un gesto che si fa quotidianamente per qualcuno, per se stessi, e comunque fa parte della nostra cultura, fa parte del nostro vivere quotidiano, quindi ci piace scoprire, vedere un'Italia che è ricca di prodotti gastronomici, di cultura, di cucina, di persone che fanno questo mestiere, quindi ci appassiona e perché no, impariamo pure qualche cosa quotidianamente. Cucinare è un atto d'amore, quindi è per questo che i cuochi sono i nuovi sex symbol, diccelo. Ah, questo non lo so, dobbiamo chiedere agli altri, però indubbiamente ci vuole amore per la materia prima e per questo mestiere, per farlo, perché comunque è un mestiere faticoso, ecco, ci vuole tanto impegno, ecco. Sembra una cosa divertente, lo è, perché è una cosa molto divertente e appassionante, però è anche molto molto impegnativa, quindi bisogna avere tanto, tanto amore, tanta dedizione, tanta pazienza e umiltà per fare questo mestiere. Ecco, lo hai detto, perché sai che sicuramente a te capiterà tutti i giorni di sentirti chiedere dei consigli. Io sento più spesso amiche, signore, che dicono mio figlio, mia figlia vuole studiare cucina, vuole fare lo chef. A te, immagino lo chiedano tutti i giorni, come si fa, Sì. Io dico sempre assolutamente, c'è bisogno di tanto studio, c'è bisogno di tanta tanta passione. Quindi oggi ci sono pure delle strutture innovative dove poter studiare come cuoco, ma poi bisogna buttarsi nel mondo del lavoro, che è tutto diverso da quello che è il mondo dello studio, e poi è uno di quei mestieri dove non si finisce mai di imparare, quindi il cuoco non è mai arrivato, capito? Questa è la cosa, certo, bella. Ma tu come sei arrivato? Sono curiosa di sapere, visto che appunto secondo me tanti sono curiosi di sapere tu che percorso hai seguito. Beh, io ho iniziato a 17 anni a lavorare sulle navi da crociera. Ah, poi accidenti, da lì ho fatto 3 anni di navi da crociera, per questo dico ci vuole tanto impegno. 3 anni di navi da crociera, poi Londra, Parigi, New York, San Francisco, Copenaghen, sono stato molto in giro, poi sono tornato in Italia. Insomma, poi se vanno sul mio sito alessandroborghese.com vedono veramente com'è un po' la vita di un cuoco a 360 gradi, e c'è veramente tanto impegno. Io in questo momento sono all'interno di una delle mie botteghe di pasta fresca a fare tortelloni. Ah, racconta cosa stai facendo, tortelloni. Sì, sto facendo dei ravioli di pollo e librizia, che sta una bottega di pasta fresca, ragazzi, qui a Milano, e quindi mi sto divertendo oltre avere catering, banking, pollo e librizia, di cosa quindi, stiamo parlando? Sì. Spettacolo, ma spettacolo, ma ragazzi, io alle 5 del pomeriggio sarei già pronta. Prima parlavamo con Davide, burro a spolverata di parmigiano e via. Beh, ma cosa possiamo volere di più? Burro a spolverata di parmigiano e via. Beh, ma è una tua invenzione? Io ho questa botteghina, quindi spesso passo dalle mie sfogline, facciamo dei ripini nuovi, sperimentiamo, abbiamo fatto oggi anche carote, ricotta e zenzero, insomma ci divertiamo, la cucina è divertimento, è fantasia. Quindi pasta fresca, bellissimo, è un altro dei grandi atti d'amore la pasta fresca. Assolutamente, è una nostra tradizione italiana che è una bottega, va mantenuta, e ci vuole tanto lavoro, però è bello, appassionante, no? Il lavoro manuale, quello del cuoco è quello di parlare con la materia prima, di divertirsi, di capire come vuole essere trasformata e di poter poi mettere mano, perché poi ci vuole sapienza e tecnica, quella si impara con gli anni e con tanto tanto studio. Da dove trai ispirazione tu? Nelle tue creazioni? Trago ispirazione da mia figlia che gioca, da un museo, da una passeggiata, da un libro che leggo, da un consiglio di un amico. Il bello della cucina è che puoi trarre ispirazione da un po' di tutto, quindi, no? Quelle... è il piacevole del nostro lavoro. Vedi un qualche cosa, un colore che ti piace, ti può ispirare un piatto, una forma. Tu hai anche lavorato con, hai citato la tua bimba, tu hai lavorato anche con i bimbi, i ragazzi giovani, i bimbi che, con i bimbi, che vogliono. Io, Gennaro Esposito e Bruno Barbieri siamo i Masterchef dei ragazzi, ecco. Quindi ci divertiamo tanto, sono creativi, sono vulcanici. E poi sono bambini, quindi sono spontanei, che è la cosa più bella, come la cucina. A me fanno veramente un'invidia pazzesca, perché io invece sono nata in una famiglia in cui, no dai, lascia stare, non entrare in cucina. Invece tu cosa consigli ai genitori, visto che appunto tu hai una bimba? Quando sono bambini devono giocare, quindi anche i ragazzi che vengono e partecipano a Junior Masterchef, poi magari un giorno faranno, non lo so... gli astronauti, apriranno un negozio di, non dico di pasta fresca, ma di qualche cos'altro, insomma possono poi cambiare, perché i bambini hanno il diritto giustamente di divertirsi come bambini e fare se vogliono Junior Masterchef, perché hanno la passione della cucina, ma poi restano bambini, crescono e possono scegliere di fare altre cose nella vita. E poi ci sono alcuni che invece diventeranno dei cuochi, i prossimi cuochi italiani del futuro. Che meraviglia, con la tua bimba giochi in cucina? Sì, assolutamente sì. Assolutamente. Lei impasta, lei piace come tutti i bambini, acqua, farina, pastrucchiare, pizza, pizzottelle, queste cose qui. Beh, devo dirti che non piace solo ai bambini, piace anche a me che sono grande, è una delle cose più divertenti del mondo. Dacci la playlist musicale che stai seguendo in questo momento, visto che io impazzisco per il fatto che tu c'hai la cucina con la musica. Che cosa ascolti in questo periodo? Sto sentendo adesso qui in pazzifico, sto sentendo i Foo Fighters. Ah, quindi il gruppo dei Foo Fighters, beh, energetico. Tanto, assolutamente ci vuole quando si lavora. Ovviamente sto omaggiando il Duca Bianco con tanto Bowie in questo periodo. Niente, questa è un po' la mia playlist di questi ultimi due giorni. Ecco, poi io cambio quotidianamente. Beh, Foo Fighters e pasta fresca mi pare un connubio perfetto. Alessandro, allora io torno a dare l'appuntamento il martedì sera, Sky 1 HD. Martedì sera alle 21:10 ci porti a mangiare la pizza, ci porti a vedere dove sta andando la pizza. Mi piace molto questa. Esatto. Questa definizione. Grazie Alessandro Borghese per essere stato con noi. Ciao a tutti. Buoni tortelli, pollo e liquirizia. Che cosa fantastica. Presto Alessandro. Ciao ciao. Noi ci ritroviamo tra poco. Adesso è il momento di dare la linea al GR24 delle 17. C'è già Gigi Donelli che è entrato in studio per il giornale radio delle 17. Alessandro Borghese qualche istante fa ci ha citato David Bowie e noi torneremo a parlarne. È inevitabile, non abbiamo mai parlato in questo sabato del villaggio, ci eravamo salutati nell'ultima puntata, quella dello scorso sabato, ascoltando e celebrando Black Star, festeggiando l'uscita di questo album magnifico. Poi è arrivata la tremenda notizia. Ne parleremo tra poco con Daniele Bellasio in RadioTube, perché come sempre tutta l'attualità della rete e dalla rete, e se ne è parlato davvero tanto, tantissimo, tanti temi per questo RadioTube che andrà in onda dopo l'edizione del giornale radio delle 17, al quale ora diamo la linea.